All'inizio Wang Lung non riuscì a lavorare a causa dei pensieri che gli davano tutti quei guai che gli erano piombati addosso e pensava: potrei mandare via mio zio e trasferirmi dentro le mura della città, dove chiudono le grandi porte ogni sera contro i briganti. Ma poi si ricordò che ogni giorno doveva andare a lavorare nei campi e chi poteva dire cosa poteva succedergli, persino sulla sua terra mentre lavorava indifeso. E poi, come poteva un uomo vivere chiuso in città? E in una casa di quella città sarebbe morto se l'avessero allontanato dalla sua terra. E poi sarebbe arrivata sicuramente una brutta annata, e persino la città allora non poteva resistere ai briganti, come non aveva resistito in passato quando la grande casa era caduta. E sarebbe potuto andare in città e nella corte dove viveva il magistrato e dirgli: mio zio è uno delle Barbe Rosse. Ma se l'avesse fatto, chi gli avrebbe creduto? Chi avrebbe creduto a un uomo che diceva una cosa simile sul fratello del proprio padre? Era più probabile che picchiassero lui per un comportamento così poco filiale, piuttosto che prendersela con lo zio. E alla fine avrebbe temuto per la sua vita, perché se l'avessero saputo i briganti, l'avrebbero ucciso per vendetta. Poi, come se non fosse abbastanza, Cucù tornò dopo aver fatto visita al mercante di grano e, sebbene l'affare del fidanzamento fosse andato bene, Liu per ora voleva che non si andasse oltre lo scambio dei documenti che lo suggellavano, perché la ragazza aveva appena 14 anni ed era troppo giovane per il matrimonio, si doveva aspettare ancora 3 anni. Wang Lung era sgomento all'idea di trovarsi davanti ancora per 3 anni la rabbia e l'indolenza e lo sguardo trassognato del ragazzo, perché ormai 2 giorni su 10 non andava a scuola e quella sera durante il pasto Wang Lung gridò a Olan: cerchiamo di fidanzare gli altri bambini non appena sarà possibile. Prima è meglio è, e sposiamoli non appena cominciano a smaniare, perché non posso sopportare tutto questo ancora 3 volte. E il mattino seguente, dopo aver dormito poco durante la notte, si tolse la veste lunga e le scarpe e, come era abituato a fare quando le questioni di casa diventavano troppo complicate, prese la zappa per andare nei suoi campi e attraversò la corte esterna, dove la ragazza più grande sedeva e, sorridendo, rigirava e lisciava il suo pezzetto di stoffa tra le dita e mormorò: questa mia piccola scioccherella mi dà più conforto di tutti gli altri insieme. E un giorno dopo l'altro, per molti giorni, uscì per andare sulle sue terre. Allora le buone terre compirono di nuovo la loro opera salutare, e il sole splendeva su di lui e lo guariva, e i venti caldi dell'estate lo avvolsero nella pace. E come a curarlo, estirpando la radice del suo incessante pensare ai propri problemi, un giorno dal sud arrivò una nuvoletta. All'inizio era sospesa sull'orizzonte, piccola e liscia come una nebbiolina, però non andava su e giù come fanno le nuvole spinte dal vento, ma rimase immobile e poi si diffuse nell'aria quasi come un ventaglio. Gli uomini del villaggio ne parlavano, osservandola, e la temevano sospesa lì sopra, perché la loro paura era che le locuste fossero arrivate dal sud per divorare quel che era stato piantato nei campi. Anche Wang Lung stava là e osservava, e tutti guardavano fisso, e a un certo punto un soffio di vento depositò qualcosa ai loro piedi. Uno si chinò d'un tratto e lo sollevò, ed era una locusta morta, morta e più leggera delle schiere vive in arrivo. Allora Wang Lung dimenticò tutte le sue preoccupazioni, le donne, i figli e lo zio, li dimenticò tutti e si precipitò in mezzo ai compaesani spaventati e gridò: adesso per le nostre buone terre combatteremo questi nemici venuti dai cieli. Ma c'erano alcuni che scuotevano la testa, privi di speranza, fin dall'inizio, e dicevano: no, è tutto inutile, il cielo ha stabilito che quest'anno moriremo di fame, e perché dovremmo rovinarci cercando di combattere se vediamo che alla fine dobbiamo morire? E le donne andarono piangendo in città a comprare l'incenso da mettere davanti agli dèi della terra nel piccolo tempio, e alcuni andarono al grande tempio in città dove c'erano gli dèi del cielo, e così terra e cielo furono venerati. Ma le locuste continuavano a diffondersi nell'aria e sopra le terre. Allora Wang Lung chiamò i suoi braccianti e Ching rimase silenzioso e pronto accanto a lui. E c'erano anche alcuni dei contadini giovani che con le loro mani diedero fuoco a certi campi, bruciandoli, bruciando il buon frumento quasi pronto per essere tagliato, scavarono ampi fossati e vi fecero scorrere l'acqua dai pozzi e lavorarono senza nemmeno dormire. Olan portava loro il cibo e le donne portavano il cibo ai loro uomini e gli uomini lo mangiavano in piedi sui campi, ingoiandolo come bestie perché lavoravano notte e giorno. Poi il cielo divenne nero e l'aria si riempì del rombo profondo e fermo di molte ali che battevano l'una contro l'altra e le locuste cadevano sulla terra, volando sopra un campo e lasciandolo intatto e cadendo sopra un altro campo e divorandolo fino a lasciarlo nudo come in inverno. E gli uomini sospiravano e dicevano: «Così vuole il cielo». Ma Wang Lung era furioso e prese a colpire e a calpestare le locuste, e i suoi uomini le battevano coi correggiati, e le locuste cadevano sui fuochi che erano stati accesi e galleggiavano morte sulle acque dei fossati che erano stati scavati, e molti milioni di loro morirono. Ma tutto questo non era niente al confronto di quelle rimaste. Per tutto quel combattere, Wang Lung ottenne comunque una ricompensa. I suoi campi migliori furono risparmiati e quando la nuvola si spostò avanti, loro poterono riposarsi. C'era ancora del frumento da raccogliere e le sue risaie erano state risparmiate ed era contento. Molte persone mangiarono poi i corpi arrostiti delle locuste, ma Wang Lung non volle mangiarle perché erano per lui creature disgustose a causa di quel che avevano fatto alle sue terre. Ma non disse niente quando Lan le gettò a friggere nell'olio e i braccianti le sgranocchiarono fra i denti e i bambini le aprirono delicatamente per assaggiarle, spaventati da quei grandi occhi. Lui però non le volle mangiare. Tuttavia le locuste fecero qualcosa per lui. Per 7 giorni non pensò ad altro che alla sua terra e fu guarito dalle sue preoccupazioni e paure e si disse con calma: «Beh, ogni uomo ha le sue preoccupazioni. E devo ingegnarmi a vivere come posso con le mie. E mio zio è più vecchio di me e morirà. In qualche modo 3 anni passeranno con mio figlio e non mi ucciderò». E raccolse il suo frumento, e le piogge vennero, e le pianticelle verdi di riso furono trapiantate nei campi allagati, e di nuovo fu estate. 24. Un giorno, dopo che Wang Lung si fu detto che nella sua casa c'era pace, il figlio maggiore andò da lui quando a mezzogiorno tornò dalla campagna e disse: «Padre, se devo diventare un letterato, non c'è più niente che quella vecchia testa in città mi possa insegnare». Wang Lung aveva attinto dal calderone in cucina una bacinella di acqua bollente e vi immerse un asciugamano e lo strizzò e tenendolo fumante sulla faccia disse: «Beh, e cosa vuoi fare adesso?» Il ragazzo esitò e poi continuò a parlare. «Eh beh, se devo diventare un letterato vorrei andare al sud, in città, ed entrare in una grande scuola per imparare tutto quello che è possibile imparare». Wang Lung si strofinò l'asciugamano sugli occhi e sulle orecchie e con la faccia fumante rispose aspramente al figlio perché aveva il corpo dolorante per il lavoro nei campi: «Beh, cosa sono queste assurdità? Ti proibisco di andare e non voglio essere infastidito per questo. Hai imparato abbastanza per questi posti». E immerse di nuovo il telo nell'acqua e lo strizzò. Ma il ragazzo rimase là a fissare il padre con odio, mugugnando qualcosa, e Wang Lung si arrabbiò perché non riusciva a sentire cosa dicesse e gridò al figlio: «Tira fuori quel che hai da dire». Allora, disturbato dalla voce del padre, il ragazzo esplose e disse: «Ah sì, e invece ci andrò al sud, e non voglio stare in questa stupida casa ed essere sorvegliato come un bambino, e in questa città che non è meglio di un villaggio, voglio andarmene e imparare qualcosa e vedere altri posti». Wang Lung guardò il figlio e poi se stesso, il figlio che stava là, indossando una lunga veste di lino grigio-argento, sottile e fresca e adatta al calore estivo, e sulle sue labbra c'erano i primi peli neri dell'età virile, e la pelle era liscia e dorata, e le mani sotto le lunghe maniche erano morbide e fini come quelle di una donna. Poi Wang Lung guardò se stesso. E si vide massiccio e sporco di terra, vestito solo con un paio di calzoni di cotone azzurro arrotolati sopra le ginocchia, mentre la vita e il torso erano nudi, e si sarebbe detto che fosse il servo di suo figlio invece che il padre. E quel pensiero suscitò in lui disprezzo verso l'aspetto fine del ragazzo, tanto che gli gridò con rabbia e violenza: «Ma vattene nei campi e strofinati addosso un po' di buona terra, o gli uomini ti prenderanno per una donna, e lavora un po' per il riso che mangi». E Wang Lung dimenticò di essere stato orgoglioso di come suo figlio scriveva e della sua prontezza coi libri e si precipitò fuori pestando i piedi nudi mentre camminava e sputando rozzamente sul pavimento perché la finezza del figlio in quel momento lo irritava. E il ragazzo, Restò fermo e lo guardava con odio, ma Wang Lung non si girò per vedere cosa stesse facendo. Eppure quella sera Wang Lung, che era andato nelle corti interne, stava seduto accanto a Loto, sdraiata sulla stuoia sopra il letto, mentre Cucù la rinfrescava agitando il ventaglio, dovette ascoltare dalla bocca di Loto queste parole, dette pigramente, come se si trattasse di qualcosa di poco conto, tanto per dire: «Il tuo ragazzo grande si strugge e desidera andarsene». Allora Wang Lung, ripensando alla sua rabbia contro il figlio, disse aspramente: «Beh, e che cosa c'entra con te? Non lo voglio in queste stanze alla sua età». Ma Loto si affrettò a rispondere: «No, no, è Cucù che lo dice». E Cucù si affrettò a dire: «Chiunque può vederlo, ed è un ragazzo amabile, troppo grande per non far niente e desiderare soltanto». Wang Lung venne distratto da questo e pensava solo alla sua rabbia verso il figlio e disse: «No! Non se ne andrà, non spenderò i miei soldi in maniera così assurda». E non volle più parlarne. E Loto vide che qualcosa l'aveva reso irascibile e mandò via Cucù e lo sopportò là da sola. Poi, per molti giorni, non venne detto più niente e all'improvviso il ragazzo sembrava nuovamente contento, ma non voleva più andare a scuola. E Wang Lung glielo consentì perché il ragazzo aveva quasi 18 anni ed era grosso di ossatura come la madre, e quando il padre entrava in casa lui se ne stava nella sua stanza a leggere, e Wang Lung era contento e pensava: «È stato un capriccio di gioventù, non sa cosa vuole, restano solo 3 anni, forse un po' d'argento può ridurli a 2 o anche 1, se l'argento è abbastanza». Uno di questi giorni, quando i raccolti saranno finiti e i fagioli sarchiati e il frumento invernale sarà stato piantato, ci penserò». Allora Wang Lung dimenticò suo figlio, perché i raccolti, tolto quello che le locuste avevano divorato, erano abbastanza buoni e a quel punto aveva nuovamente guadagnato quel che aveva speso per Loto. Il suo oro e il suo argento erano nuovamente preziosi per lui, e a volte si meravigliava segretamente di se stesso per aver speso così liberamente per una donna. Eppure c'erano volte in cui lei lo eccitava dolcemente, se non con tanta intensità come all'inizio, ed era orgoglioso di possederla, benché vedesse bene che le affermazioni della moglie dello zio erano vere, che nonostante la piccola statura non era tanto giovane e non pensò mai di dargli un figlio. Ma questo non gli importava perché aveva figli e figlie ed era disposta a tenerla solo per il piacere che gli dava. Quanto a Loto, a mano che gli anni avanzavano, diventava più graziosa, perché se prima aveva avuto un difetto, era stata la sua magrezza da uccello che rendeva troppo affilate le linee del suo visetto appuntito e troppo incavate le tempie. Ma adesso, grazie al cibo che le cucinava Cucù e l'indolenza della sua vita con un uomo solo, il suo corpo divenne morbido e rotondo e la sua faccia piena e liscia sulle tempie. E con i suoi ampi occhi e la bocca piccola assomigliava più che mai a un gattino paffuto, e dormiva e mangiava, e la carne del suo corpo diventava morbida e liscia. Se non era più il bocciolo di Loto, era un fiore pienamente sbocciato e nulla di più. E se non era giovane, non appariva nemmeno vecchia, e giovinezza e vecchiaia erano ugualmente lontane da lei. Ora che la sua vita era tornata tranquilla e il ragazzo era contento, Wang Lung avrebbe potuto essere soddisfatto, se non che una sera tardi, mentre se ne stava da solo a calcolare sulle dita quanto grano turco poteva vendere e quanto riso, Olan entrò silenziosamente nella stanza. Con il passare degli anni era diventata magra e scarna, e le ossa del suo viso spuntavano come pietre e i suoi occhi erano incavati. Se qualcuno le chiedeva come stava, lei diceva soltanto: «C'è un fuoco nelle mie viscere». Negli ultimi 3 anni il suo ventre era stato grosso come se fosse incinta, ma non partorì mai, però si alzava all'alba e faceva il suo lavoro, e Wang Lung la vedeva come se vedesse il tavolo o la sedia o un albero nel cortile. Nemmeno con quell'interesse con cui avrebbe potuto guardare uno dei buoi che teneva la testa bassa o un maiale che non voleva mangiare. E faceva il suo lavoro da sola, e parlava appena quel tanto che non poteva evitare con la moglie dello zio di Wang Lung, e non parlava mai con Cucù. Olan non era mai andata nelle corti interne, e se di rado Loto usciva per camminare un po' in un altro posto che non fosse la sua corte, Olan si ritirava nella sua stanza e stava lì fin quando le dicevano: «Se n'è andata». E non diceva niente, ma lavorava, cucinando e lavando i panni nello stagno persino d'inverno, quando l'acqua era coperta da uno strato di ghiaccio che bisognava spezzare. Ma Wang Lung non pensò mai di dire perché non prendi una serva o non compri una schiava con l'argento che ho da parte. Non gli venne mai in mente che potesse essercene bisogno, per quanto assoldasse braccianti per i suoi campi e per aiutare a badare ai buoi e agli asini e ai maiali che aveva, e in estate, quando il fiume straripava, assoldava uomini che radunassero sull'acqua le anatre e le oche che nutriva. Quella sera, quindi, mentre era seduto da solo con le sole candele rosse accese nei supporti di peltro, lei gli si mise davanti e guardò da una parte e dall'altra e alla fine disse: «Devo dirti una cosa». Lui allora la guardò sorpreso e rispose: «Su, dimmi». E la guardò fisso, vide le cavità ombreggiate del suo viso e pensò ancora come non ci fosse nessuna bellezza in lei e da molti anni non la desiderasse più. Poi lei disse in un duro sussurro: «Il figlio più grande va troppo spesso nelle corti interne. Ci va quando tu non ci sei». All'inizio Wang Lung non riuscì ad afferrare cosa volesse dire, sussurrando a quel modo, e si sporse in avanti con la bocca spalancata e chiese: «Cosa dici, donna?» Lei indicò muta la stanza del figlio e arricciò le labbra secche e spesse, rivolta verso la porta che conduceva alla corte interna. Ma Wang Lung, energico e incredulo, la guardò fisso. «Stai sognando», disse alla fine. Olan scosse la testa e continuò a dire quelle parole così difficili che le labbra sembravano voler trattenere. «Bene, mio signore, torna a casa senza preavviso». E di nuovo, dopo un breve silenzio: «È meglio mandarlo via anche al sud». E andò poi al tavolo e prese la ciotola del suo tè e sentì che era freddo e lo versò sul pavimento di mattoni. E riempì nuovamente la ciotola dalla teiera calda e in silenzio, come era venuta, se ne andò, lasciandolo là seduto a bocca aperta. «Quella donna», si disse Wang Lung, «quella donna era gelosa, ma non se ne sarebbe preoccupato ora che il ragazzo era contento e ogni giorno passava il tempo a leggere nella sua stanza». Poi si alzò e rise e allontanò il pensiero, ridendo della mente ristretta delle donne. Ma quella sera, quando andò a stendersi accanto a Loto e si girò sul letto, lei si lamentò insolente, lo spinse via da sé dicendo: «Fa caldo e puzzi, vorrei che ti lavassi prima di venire a sdraiarti accanto a me». Si mise seduta e scostò nervosamente i capelli dal viso, scosse le spalle quando lui fece per tirarla a sé e non volle cedere ai suoi inviti. Allora Wang Lung restò sdraiato in silenzio e si ricordò che per molte notti gli aveva ceduto malvolentieri. Lui aveva pensato che si trattasse di un capriccio e dell'aria pesante di fine estate che la opprimeva, ma adesso le parole di Olan gli risuonarono nette nella mente. D'un tratto si alzò e disse: «Bene, dormi sola allora e tagliami la gola se me ne importa». Si lanciò fuori dalla stanza e andò nella stanza centrale della sua casa e accostò due sedie per sdraiarvisi, ma non riuscì a dormire e si alzò e uscì dal portone e camminò tra i bambù accanto al muro della casa. E lì sentì sulla carne bollente la fresca brezza notturna che racchiudeva la frescura dell'autunno in arrivo. Poi gli venne in mente che Loto conosceva il desiderio del figlio di andarsene via. E come lo sapeva? E gli venne in mente che di recente il figlio non aveva più parlato di andarsene, ma era stato contento. E perché? E Wang Lung si disse furibondo: «Voglio vederlo con i miei occhi!» E osservò l'alba spuntare rossa da una foschia che copriva la sua terra. Quando l'alba fu arrivata e il sole mostrò un alone dorato sopra il bordo dei campi, Wang Lung entrò e mangiò. Poi uscì per sovrintendere ai suoi uomini, come era sua abitudine, all'epoca del raccolto e della semina, e andò qua e là sulla sua terra, e infine gridò con forza, in modo che chiunque in casa potesse sentirlo: «Adesso vado all'appezzamento vicino al fossato in città e non tornerò presto», e rivolse il viso in quella direzione. Ma quando fu a metà tragitto, arrivato al tempietto, si sedette accanto alla strada su una montagnola erbosa che era una vecchia tomba ora dimenticata, e strappò un filo d'erba e lo rigirò fra le dita e si mise a riflettere. Di fronte a lui c'erano i piccoli dei e sulla superficie della mente si accorse di come lo stavano guardando, pensò alla paura che un tempo aveva di loro e a come ora non ci badasse più perché era diventato ricco e non aveva bisogno di dei, tanto che a stento li vedeva. Ma sotto pensava a se stesso, continuando a chiedersi: «Devo tornare?» Poi all'improvviso si ricordò della sera prima, quando Lotto l'aveva respinto e fu preso dalla rabbia a causa di tutto quel che aveva fatto per lei, e si disse: «So bene che non sarebbe rimasta ancora molti anni alla casa da te, e nella mia casa ha cibo e vestiti in abbondanza». E forte della sua rabbia si alzò e tornò a casa, seguendo un altro tragitto, ed entrò di nascosto, e rimase dietro la tenda appesa sulla porta che conduceva alla corte interna, e si mise in ascolto e sentì la voce di un uomo. Ed era la voce di suo figlio. Ora, la rabbia che montò nel cuore di Wang Lung divenne una rabbia come non aveva mai conosciuto nella vita. Anche se a mano che gli affari prosperavano e che la gente prendeva a chiamarlo ricco, lui aveva perso la sua originaria timidezza da uomo di campagna, veniva preso spesso da piccoli accessi di rabbia e appariva pieno di orgoglio persino in città. Ma quella rabbia adesso era la rabbia di un uomo contro un altro uomo che gli sta rubando la donna amata. E quando si ricordò che quell'altro uomo era il suo stesso figlio, Wang Lung si sentì colmare da una fortissima nausea. Prese la sua risoluzione, uscì e nella macchia dei bambù ne scelse uno sottile e flessibile. Tolse i rami, lasciandone solo un ciuffo di rametti in cima, sottili e duri come una fune, e ne strappò le foglie. Poi entrò senza far rumore e tirò di colpo la tenda. Ed ecco là suo figlio, nella corte, che guardava Loto seduta su un piccolo sgabello accanto alla vasca. E Loto indossava la sua giacca di seta color pesca che non le aveva mai visto portare nella luce del mattino. Parlavano e la donna rideva piano e guardava il giovane con la coda dell'occhio, il capo rivolto dall'altra parte. E così non sentirono Wang Lung che stava là e li fissava con la faccia sempre più bianca, le labbra tirate che scoprivano i denti digrignati e le mani strette sul bambù. Ma ancora non lo sentivano e non l'avrebbero nemmeno sentito se non fosse uscita Cucù che lo vide e strillò ed entrambi lo videro. Poi Wang Lung scattò avanti e si gettò sul figlio colpendolo e nonostante il ragazzo fosse più alto, il padre era più forte grazie al lavoro nei campi e alla robustezza del suo corpo maturo e lo picchiò fino a coprirlo di rivoli di sangue. Quando Loto gridò e si attaccò alla sua manica, lui la scosse allontanandola, poi picchiò anche lei finché fuggì e picchiò il ragazzo fin quando si rannicchiò a terra nascondendo con le mani la faccia malmenata. Poi Wang Lung fece una pausa e il respiro sibilava attraverso le labbra socchiuse e il sudore scorreva lungo il suo corpo e lo inzuppava e si sentì debole come se fosse malato. Buttò a terra il suo bambù e sussurrò ansante al ragazzo: «Adesso vai nella tua stanza e non osare uscirne fin quando non mi sarò sbarazzato di te o ti ammazzo». E il ragazzo si alzò senza una parola e uscì. Wang Lung sedeva sullo sgabello dove era stata seduta Loto e appoggiò la testa sulle mani e chiuse gli occhi, e il suo respiro entrava e usciva in grandi rantoli. Nessuno si avvicinò a lui e rimase lì seduto da solo, in attesa di calmarsi e di sbollire la rabbia. Poi si alzò stancamente ed entrò nella stanza e Loto era stesa là sul letto che piangeva forte. Lei si avvicinò e la rigirò e lei lo guardava piangendo e sul suo viso c'era il segno viola e gonfio della sua frusta. E lui disse con profonda tristezza: «Sarai sempre una puttana e vuoi fare la puttana persino con i miei figli». E a quelle parole lei pianse ancora più forte e protestò: «No, non è vero! Il ragazzo si sentiva solo ed è venuto qui. Puoi chiedere a Cucù se è mai venuto vicino al mio letto più di quanto l'hai visto tu nella corte». Poi lo guardò con aria spaventata e penosa, prese la sua mano e la portò al segno che aveva in viso, piagnucolando: «Guarda cosa hai fatto alla tua Loto! E non c'è uomo al mondo oltre a te e tuo figlio, è solamente tuo figlio! Non è niente per me!» Levò lo sguardo verso di lui, i begli occhi inondati dalle lacrime, e lui gemette perché la bellezza della donna era più grande di quanto desiderasse e l'amava, anche se avrebbe voluto non amarla. E all'improvviso capì che non avrebbe sopportato di sapere cos'era successo fra i due e desiderò non saperlo mai, ed era meglio per lui non saperlo. Così gemette ancora e uscì. Superò la stanza del figlio e gridò senza entrare: «E adesso metti le tue cose nella cassetta e domani te ne vai al sud a fare quello che vuoi e non tornare a casa finché non ti chiamo io». Poi proseguì e là vide Lan che cuciva un abito del marito. E quando le passò davanti, lei non disse niente, e se aveva sentito i colpi e le grida, non lo diede a vedere. E Wang Lung proseguì e uscì nei campi, sotto l'alto sole del mezzogiorno, stremato come dopo una giornata intera di fatica.